piangere, scarro di addio me ne voi, non dico credo no, addio se ne voi, chi è stanca e chi ha niente. Quella si innamorata un nubito che ha vinto che ha preparato la forastiera un bottone ad un mondo loro e sento che m'accide sto Grazie, sentito.